Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Assalamu alaikum. Insieme da questa terra di incontro tra cielo e terra, di alleanze tra le genti e tra i credenti, ripetiamo un no forte e chiaro ad ogni forma di violenza, vendetta e odio commessi in nome della religione o in nome di Dio. Questo ha detto con forza, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il Papa, Papa Francesco, che oggi è partito, è arrivato al Cairo per questi 2 giorni in Egitto alla conferenza di pace internazionale, ha incontrato il presidente Al-Sisi, è andato all'università di Al-Azhar dal grande imam, insomma un incontro, così come ha detto lui, di unità e di fratellanza. Poi è uno degli argomenti di cui parleremo questa sera, collegandoci direttamente col Cairo, e poi faremo, essendo venerdì, ultima puntata della settimana di Effetto Notte, anche il bilancio della politica della settimana, che essenzialmente riguarda le primarie del PD, che sapete che si vota domenica, quindi torneremo anche su questo. E poi ci sono molti altri argomenti, fra cui le minacce sempre più preoccupanti della Corea del Nord, le minacce nucleari, con gli Stati Uniti che sono un po' sul piede di guerra, o perlomeno dicono non staremo lì a guardare, il rischio di guerra è probabile, l'ONU è estremamente preoccupato, e vedremo un po' quanto sono, insomma, quali sono, diciamo, gli scenari possibili, anche con per esempio la Cina che chiede di ricorrere a mezzi diplomatici, e Mosca che avverte attenzione perché noi non tollereremo l'uso della forza. Insomma, una situazione internazionale complessa. Allora, per intervenire, lo sapete, quindi tanti i fatti a vostra disposizione, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, potete interagire, che lì per voi giorno e notte, oppure con i messaggi e WhatsApp al numero 349-238-6666. Visto che siamo già entrati in ritardo per chi ci precede, allora direi di partire subito con i titoli. La polemica sui migranti, il procuratore di Catania comparirà davanti al CSM, Di Maio attacca, è una vergogna. Il Papa in Egitto incontra il presidente Al-Sisi e l'imam di Al-Azhar e sottolinea le violenze e la negazione della religiosità. Le minacce nucleari della Corea del Nord, il segretario di Stato americano Tillerson parla di rischio guerra reale per Mosca, l'uso della forza è inaccettabile, l'ONU è in allarme. Primarie del PD, rush finale, scontro sulle possibili alleanze. Facebook ammette il social network usato anche dai governi stranieri per diffondere notizie false. E per il calcio, questa sera Atalanta-Juventus. Partiamo quindi subito dal caso ONG Migranti, emerso dall'inchiesta e dalle dichiarazioni del procuratore di Catania Zuccaro, che ha parlato di complicità, come sapete ne abbiamo parlato anche ieri, tra alcune organizzazioni non governative e i trafficanti di esseri umani. Del caso si occuperà nei prossimi giorni il Consiglio Superiore della Magistratura, come annunciato dal vicepresidente Legnini. Il caso Zuccaro arriva al Consiglio Superiore della Magistratura. Il consigliere laico di Forza Italia Zanettin chiede l'apertura di una pratica a tutela del procuratore capo di Catania, finito al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni sui rapporti fra trafficanti ed alcune ONG. Ad intervenire anche l'Osservatore Romano. Secondo il giornale della Santa Sede, sembra emergere un nuovo scandalo sulla pelle dei migranti. Dopo aver preso le distanze dalla Procura di Catania, il guardasigilli Orlando intanto oggi corregge in parte il tiro, assicurando che il Ministero della Giustizia, se serve, è pronto a sostenere le indagini, ma a schierarsi a fianco di Zuccaro è soprattutto il Movimento 5 Stelle con Di Maio. Noi abbiamo un procuratore che ci dice: io ho le certezze di rapporti tra scafisti e alcune ONG, ma non posso utilizzarle come prove. La proposta che facciamo noi è una proposta di modifica delle leggi italiane che consentano alla Procura di Catania di utilizzare quelle intercettazioni come prove per un processo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per ora non ci sono riscontri noti. C'è il faldone conoscitivo aperto dalla Procura di Catania, altri due a Palermo e a Trapani, un'indagine anch'essa conoscitiva avviata dalla Commissione Difesa del Senato. Ma ci potrebbe essere qualcosa di più concreto, di un semplice sospetto, nella denuncia pubblica fatta dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, su possibili collegamenti tra qualche ONG e i trafficanti di uomini che stanno in Libia. Lui non lo dice chiaramente, ma a leggere con attenzione le sue dichiarazioni si capisce che le intercettazioni hanno captato conversazioni in lingua araba tra soggetti che stanno sulla terraferma in Libia ed esponenti dell'ONG che dichiarano di essere lì pronti a recuperare i migranti. Poi vi sono le navi con i transponder spenti per non essere individuate. Infine c'è quella che lui stesso definisce un'ipotesi di lavoro. Dall'esame dei bilanci delle ONG già acquisiti dalla Procura di Catania risulta un'enorme disponibilità finanziaria giustificata per alcuni, molto meno per altri. Stiamo lavorando per sapere chi sono i finanziatori, dice Zuccaro, se oltre quelli dichiarati ce ne sono altri e da dove provengono i soldi. Che un'organizzazione come MOAS possa spendere 400.000 euro al mese è un dato che merita un approfondimento. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catania. E poi ci torneremo su questo. Intanto parliamo del Papa in Egitto nella sua prima giornata. Francesco ha incontrato al Cairo il presidente egiziano Al-Sisi a Palazzo Presidenziale. Subito dopo ha visitato l'università musulmana sunnita di Al-Azhar, la massima istituzione dell'Islam sunnita, dove ha incontrato il grande imam Ahmad al-Tayyib, con il quale ha scambiato un lungo abbraccio. Insieme hanno preso parte alla conferenza di pace internazionale alla quale ha partecipato anche il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo. Durissime le parole di Bergoglio contro il terrorismo, dice che è la negazione di ogni vera religiosità, va ripudiato l'estremismo che oltraggia il nome di Dio. E poi, come vi dicevo all'inizio, ci collegheremo direttamente con il Cairo. E ora la preoccupazione internazionale per le minacce della Corea del Nord alla vigilia dell'intervento del segretario di Stato americano Tillerson alle Nazioni Unite per chiedere sanzioni contro il programma nucleare di Pyongyang. Il presidente americano Trump parla di possibile conflitto, Mosca avverte però che l'uso della forza non è accettabile, sollecitando strumenti diplomatici così come la Cina, mentre il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres si è detto allarmato dal rischio di escalation militare nella regione. E dopo torniamo a parlare anche di questa grossa tensione internazionale alimentata appunto da queste minacce del dittatore nordcoreano. Restiamo all'estero con le presidenziali francesi. Jean-Luc Mélenchon, candidato della sinistra, annuncia che andrà a votare al ballottaggio e non voterà però di certo il Front National. Je considère comme beaucoup que Jean-Luc Mélenchon a mené une campagne de premier tour qui était une campagne respectable. Arginare Macron. Con questo obiettivo Marine Le Pen, che abbiamo sentito, si rivolge via Facebook ai 7 milioni di elettori di Mélenchon, il leader dell'estrema sinistra rimasto escluso dal ballottaggio, chiedendo il loro voto. Mettiamo da parte le divergenze, poi riprenderemo le discussioni dopo le elezioni, afferma l'ex leader del Front National che ha lasciato la presidenza del partito per diventare la candidata detto di tutti i francesi. Intanto Mélenchon continua a non dare indicazioni ai suoi elettori su chi votare al ballottaggio del 7 maggio, salvo sottolineare che andrà le urne che mai voterà per il Front National. La strategia della candidata all'Eliseo, sempre più vicina a quanto appare alla classe operaia in crisi, sembra pagare. Secondo l'ultimo sondaggio condotto da Eudoxa, infatti, il candidato centrista Emmanuel Macron sarebbe in testa con il 59% delle preferenze, ma perderebbe 4 punti rispetto all'ultima rilevazione. Intanto, dopo Jean-François Jalc, che ha rinunciato in mattinata alla presidenza del Front National per le polemiche su sue presunte frasi negazioniste, un'inchiesta giudiziaria investe il suo sostituto appena nominato, Steve Briouat. Su di lui, infatti, è stata aperta un'inchiesta per incitamento all'odio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dalla politica francese alla politica italiana, ultime ore di campagna elettorale per le primarie del Partito Democratico con il tema alleanze in primo piano. Renzi da Bruxelles ribadisce che i partiti socialisti in Europa devono investire nei diritti sociali e sui temi della sinistra, ma anche nel centro, perché dice con i radicali si vincono le primarie ma poi si perdono le elezioni. Orlando avverte: se vince Renzi farà l'alleanza con Berlusconi, se vinco io costruirò un nuovo centrosinistra. Mentre l'altro contendente Emiliano definisce Renzi come inutile al PD, mettendolo in guardia, dice lo farò impazzire. E fra poco ci ritorniamo appunto nel bilancio della politica della settimana. Andiamo all'economia italiana. Positivo il dato sull'inflazione secondo l'Istat, migliora anche la capacità delle famiglie di far fronte ai debiti, dice la Banca d'Italia. Andamento del costo della vita con un livello, quello di aprile, di fatto record, perché il più alto da oltre 4 anni, ovvero dal febbraio del 2013, più 1,8% su base annua, migliore dell'1,4% che si era registrata a marzo. Si tratta della sesta variazione consecutiva positiva. A cosa si deve questa ulteriore accelerazione dell'inflazione? Secondo l'Istituto di Statistica, le recenti festività di Pasqua e poi del ponte del 25 aprile hanno trascinato in alto i prezzi al consumo, in particolare grazie a trasporti e servizi ricreativi. In In generale, l'inflazione che cresce indica un ritorno ai consumi, con alle spalle evidentemente una maggiore capacità di spesa delle famiglie. Famiglie che, secondo Banca Italia, insieme alle imprese, hanno migliorato la loro capacità di ripagare i propri debiti, con effetti positivi sui bilanci bancari. Il rapporto sulla stabilità finanziaria dell'Istituto di Via Nazionale spiega che le insolvenze di famiglie e imprese tornano infatti ad avvicinarsi ai livelli pre-crisi. Sempre secondo Banca Italia, il sistema bancario italiano mostra segnali di miglioramento, ma rimane esposto a rischi rilevanti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora la cronaca. A Torino una donna fa un appello ai giudici che hanno messo ai domiciliari l'ex marito, chiedendo di tenerlo in carcere per paura che lui possa ucciderla. Devo dire, umanamente è legittimo che abbia paura, che poi oggettivamente sembra che non parli il difensore della persona offesa, però faccio il penalista da 50 anni e quindi di norma mi tocco sul fuoco quando si tratta di cattivi rapporti tra familiari. L'avvocato Antonio Foti cerca di spegnere così il clamore suscitato dalla sua assistita, preoccupata che l'ex marito possa decidere di ammazzare lei e i figli. Le denunce per stalking però ci sono e sono anche diverse. Luigi Garofalo era stato arrestato lo scorso 8 marzo dalla polizia perché aveva tentato di sparare al figlio di 19 anni, colpevole di prendere le parti della madre. In realtà si trattava di una pistola giocattolo usata per intimorire. Per questo i giudici gli hanno vietato di avvicinarsi alla casa e al posto di lavoro dei familiari. Ma lui, uscito dal carcere mercoledì scorso perché messo ai domiciliari, si è presentato al bar gestito dall'ex moglie, Elena Farina. Così la donna, terrorizzata che l'uomo possa passare dalle parole ai fatti, si è rivolta ai giudici tramite gli organi di stampa, chiedendo che venga tenuto in cella. Il difensore di lui però nega le accuse e racconta che durante i litigi le minacce arrivavano da entrambe le parti, aggiungendo che il suo cliente faticava ad accettare una nuova relazione dall'ex moglie e anche questo era motivo di tensione. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di Facebook e di una missione di Facebook che dice che dietro il fenomeno delle fake news e delle false notizie potrebbero esserci anche stati stranieri. In un documento di 13 pagine pubblicato nelle ultime ore, Facebook conferma i sospetti di molti esperti, che anche il social network sia stato utilizzato da organizzazioni che puntano a influenzare o manipolare l'opinione pubblica attraverso notizie distorte, esagerate o del tutto inventate, le cosiddette fake news. Dietro questo fenomeno ci sarebbero anche stati stranieri che utilizzano falsi account e anche se statisticamente ancora piccolo, il problema è grave e bisogna intervenire. Anche Google sta cercando di migliorare l'algoritmo di ricerca per punire chi tarocca il dibattito della rete, ma per ora gli strumenti sono deboli e i sistemi automatici non molto efficaci. Infatti la maggior parte dei controlli è fatta da migliaia di persone che si basano sulle segnalazioni degli utenti e a parte le poche notizie palesemente inventate, la rete è piena di messaggi taroccati ad arte, individuarli non è facile e può sfociare in quella che si chiama censura. Enrico Paglierini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Saranno più di 7 milioni i turisti che si concederanno una mini vacanza per il ponte del 1° maggio e quindi poi verso la fine di questa puntata di Effetto Notte sentiremo anche quali sono le previsioni in meteo, mentre il nostro Giovanni Capuano, più che prevedere cosa vede da questo inizio di partita Atalanta-Juventus, caro Eccomi Giovanni. Eccomi Roberta, ciao. Sì, Atalanta-Juventus intanto 28esimo minuto, 0-0 risultato di una partita che fin qui non ha regalato grandissime emozioni. C'è stato un avvio molto equilibrato con due squadre che si sono confrontate soprattutto a centrocampo, una Juventus che a tratti è stata troppo poco precisa, tant'è vero che Allegri ha spesso ripreso i suoi giocatori negli ultimi 2 minuti, però i bianconeri hanno provato ad alzare un po' il baricentro e hanno anche trovato il primo tiro in porta con una girata di Higuain che è stata però parata facilmente dal portiere dell'Atalanta Berisha. 0-0 dicevamo, e questa è una partita importante sulla strada del sesto scudetto consecutivo, tant'è vero che Allegri ha scelto di far giocare questa sera la formazione titolare anche se mercoledì c'è la semifinale d'andata della Champions League contro il Monaco, e dunque ci sono tutti gli attaccanti, c'è Higuain che abbiamo già citato, ci sono Dybala, c'è Cuadrado, c'è Mandzukic, a centrocampo ci sono Khedira e Pjanic, c'è insomma la formazione che presumibilmente mercoledì si giocherà la prima fetta della finale della sfida che porta alla finale di Cardiff del 3 giugno. Ci sono un paio di cambi invece nell'Atalanta, che questa sera ha assolutamente bisogno di non perdere perché ha un piede e mezzo in Europa ma ha bisogno bisogno di continuare ad avere una certa continuità di risultati, e quindi questa è una sfida assolutamente aperta. Pochi istanti fa l'Atalanta ha avuto una grande occasione per portarsi in vantaggio, è stato provvidenziale in uscita su Freuler Buffon, che è riuscito a respingere. È stato questo il primo errore difensivo, un errore di Chiellini in rilancio, primo errore difensivo per la Juventus. Partita dunque assolutamente equilibrata, siamo nel 29esimo minuto e 0-0. Ti ricordo solo che la Juventus ha vinto 13 delle ultime 13 sfide contro i bergamaschi. Caspita. E quindi dal punto di vista della cabala questa dovrebbe essere, esatto, una partita chiusa nel pronostico, ma quest'anno non è così. Ma non si può mai dire. Grazie Giovanni Capuano, poi capiremo man mano il percorso, ci riaggiorneremo con Giovanni più tardi sulla partita. Adesso direi di prenderci questa pausa per aggiornare chi sta viaggiando e tra poco cominceremo allora a approfondire i vari temi con gli ospiti. 349-238-6666 per i vostri commenti, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio. Francesco scrive: a proposito delle primarie PD, un'altra piccola diminuzione dell'affluenza e potranno tenere i conti col pallottoliere. Quindi insomma, diciamo, poco fiducioso nell'affluenza, alla quale però richiamano tutti e tre i candidati del PD. E poi Corea del Nord, dice sempre Francesco, vorrei vedere come potrebbe reggere una guerra con l'arsenale antidiluviano e l'inesistente apparato industriale che si ritrova. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie, come sempre, ve le ho riassunte poco fa, Roberta Giordano sempre con voi, poi lo sapete che ogni tanto ve le ricordo se non avete acceso puntualmente alle 21. Vi ricordo fra l'altro che tra poco, come sempre, l'ultima puntata della settimana di Effetto Notte, faremo il bilancio della politica della settimana. Intanto i vostri messaggi sono anche sul rischio di guerra con la Corea del Nord, così ha detto Pechino giorni fa. Gli stessi Stati Uniti oggi dicono che il rischio potrebbe essere fondato, e così anche l'ONU, insomma, c'è preoccupazione. Gaetano scrive: ovviamente la Nord Corea non può costituire un pericolo né per gli Stati Uniti e tantomeno per l'Europa, però basterebbe anche solo qualche missile o bomba sporca per fare molti danni e vittime ai loro vicini sudcoreani, e questo sarebbe per loro già un grande successo. Poi ne parleremo. Adesso invece vi dicevo la politica, ma prima vi ricordo quali sono i fatti principali. In Egitto l'abbraccio del Papa al grande imam: il populismo è contro la pace, dice, l'Islam non è terrorismo. E poi primarie del PD al rush finale, scontro sulle alleanze, in particolare ONG e migranti. Il caso di Catania arriva al Consiglio Superiore della Magistratura, interviene anche il Vaticano che dice non bisogna negare il problema ma neanche gettare quest'ombra sulle organizzazioni non governative. Poi gli Stati Uniti che, come dicevamo, avvertono la Corea del Nord e dicono tutte le opzioni sono sul tavolo, mentre la Russia dice che l'uso della forza è inaccettabile. E poi c'è il balzo dell'inflazione ad aprile, più 1,8%, al top da 4 anni. Banca Italia dice che famiglie e imprese migliorano le loro risorse. E poi Facebook dice che i social, ammette per la prima volta che i social network sono usati dai governi anche per le cosiddette fake news, cioè per le false notizie. Quindi siamo, come sempre, venerdì al bilancio della politica della settimana, che questa settimana si focalizza essenzialmente sulle primarie del Partito Democratico. Vi ricordate che abbiamo seguito proprio mercoledì la diretta su Sky tra i tre contendenti, qualcuno dei tre tenori, sono stati fatte varie ironie e metafore, Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano. Quindi domenica ci sarà, insomma, il voto della verità, si vedrà quale sarà il vincitore, anche se è dato quasi per scontato che sia Matteo Renzi, però tutti e tre i candidati chiamano, insomma, all'affluenza, e così anche Gentiloni, che sentiremo tra pochissimo. E poi c'è l'altro fatto politico importante della settimana, è sicuramente questa grossa polemica e questo caso suscitato dall'inchiesta e dalle dichiarazioni del procuratore di Catania Zuccaro, il quale ha detto, come sapete, insomma, se ne è parlato molto in questi giorni, che ci sarebbe una complicità tra organizzazioni non governative, perlomeno alcune, e i trafficanti di esseri umani. Ieri addirittura ha detto che potrebbe esserci dietro questa cosa un progetto di destabilizzazione dell'economia italiana. Intanto saluto la nostra Raffaella Calandra. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Raffaella, che domenica sarà in prima linea nello speciale di Radio 24 sulle primarie del PD. Però direi, Raffaella, di iniziare prima proprio proprio da questa polemica e farei sentire che cosa ha detto proprio il procuratore di Catania, Zuccaro, ad Agorà su Rai 3. Sentiamo. A mio avviso le ONG potrebbero essere finanziate, alcune ONG, ripeto, tenuto distinto, dai trafficanti. So di contatti, un traffico che oggi sta fruttando quanto il traffico della droga. Moltiplicate 8.500 per 600 euro circa, che è il costo di ogni viaggio, e avrete delle cifre che sono abbastanza significative. 8.500 in 3 giorni, in 3-4 giorni. Potrebbe anche essere, forse la cosa potrebbe essere anche più inquietante, che si perseguono da parte di alcune di queste ONG finalità diverse, di destabilizzazione per esempio dell'economia italiana. Quindi delle accuse gravissime. Ieri proprio qui a Fettonotte è stato ospite il vice ministro dell'interno Bubico e insomma diciamo che ha fatto delle dichiarazioni, delle osservazioni piuttosto dure nei confronti del procuratore di Catania. Sentiamo. Normalmente i procuratori parlano attraverso gli atti e dicono fatti e circostanze molto precise quando ritengono di poterlo dire, quando non ci sono esigenze di cautela perché le indagini possano essere svolte in maniera appropriata. A me sembrava più la voce di un commentatore politico, di un passante che esprime un'opinione su un fenomeno, o nella migliore delle ipotesi di un sociologo che si occupa di un fenomeno. La nostra magistratura parla, appunto, ripeto, con atti, citando circostanze precise, quando è il momento di farlo. Ora, che possano esserci fatti di questo genere, nessuno è in grado di escluderlo, ma appunto è il lavoro della magistratura accertare i fatti, individuare i responsabili e agire di conseguenza. E poi, diciamo, dal punto di vista politico, questa posizione invece del procuratore, sostenuta soprattutto dal Movimento 5 Stelle, sentiamo Di Maio. Noi abbiamo un procuratore che ci dice: io ho le certezze di rapporti tra scafisti e alcune ONG, ma non posso utilizzarle come prove. La proposta che facciamo noi, e da stamattina siamo al lavoro su questo, è una proposta di modifica delle leggi italiane che consentano alla Procura di Catania di utilizzare quelle intercettazioni come prove per un processo. Un procuratore che lancia un allarme del genere dovrebbe avere il sostegno di tutta la politica italiana. È vergognoso che il Ministro della Giustizia invece ieri metta in dubbio quello che sta facendo un procuratore. E a questo punto, Raffaella, il caso finirà davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, no? Sì, Palazzo dei Marescialli appunto se ne occuperà per queste dichiarazioni del procuratore di Catania. Una vicenda assai delicata, complessa, di cui diciamo la politica ne sta facendo anche un uso un po' strumentale, perché poi è vero che ci sono state queste dichiarazioni, ma è anche vero che è un fenomeno molto complesso e che bisogna anche avere tutti gli elementi per poterlo raccontare diciamo adeguatamente. Però, come spesso succede, queste vicende e alcune dichiarazioni, diciamo, in questo forse il procuratore doveva immaginarlo, diciamo, finiscono con l'essere strattonate da una parte e dall'altra in un dibattito politico che a volte si scolla da quelli che sono gli elementi effettivi dell'inchiesta. Adesso invece andiamo proprio sulla politica stretta con, dicevamo, le primarie. Vogliamo sentire anche cosa ha detto oggi, visto che il Presidente del Consiglio Gentiloni, cosa ha detto a proposito di questa sfida a tre. Ma il progetto era il progetto di avere, se volete, una sinistra del nuovo secolo, una sinistra capace di guardare oltre le tradizioni, le divisioni del secolo precedente. Ora che i fatti ci danno ragione, guai a dimenticare quella lezione, guai a perdere quello spirito maggioritario che aveva animato l'Ulivo e che ha animato fin dalla sua fondazione il Partito Democratico. Questo è l'appello di Gentiloni. Però, Raffaele, adesso faccio sentire un po' una sfilza di passaggi del confronto TV su Sky che c'è stato mercoledì, che appunto qui a Fettonotte abbiamo seguito. Innanzitutto, per esempio, su un tema caldissimo, quello di Alitalia, sentiamo cosa ha detto prima Renzi, poi Orlando, poi Emiliano. No soldi pubblici, ma una proposta che il PD dovrà avanzare al governo nei primi 15 giorni della nuova segreteria. Quindi, se saremo eletti, entro il 15 maggio dovremo presentare al governo una proposta, perché su Alitalia è stata la saga, il festival degli errori, assurdo che un paese come il nostro, pieno di turismo e ricco di possibilità dal punto di vista aereo, butti via un'occasione del genere. Dagli e dagli a disintermediare, a dire che il sindacato non serve a niente, poi è difficile anche gestire questi passaggi. In tutti i casi io credo che noi non possiamo lasciare soli i lavoratori di Alitalia. La liquidazione non è la strada che possiamo seguire, dobbiamo fare in modo tale che la politica faccia tutto il possibile, tutto il possibile, tutto quello consentito. Qualcuno pretenderebbe di far fallire la compagnia, di mandare a casa 13.000 persone e di fare un danno d'immagine e concreto all'Italia molto, molto severo. Bisogna evitarlo ad ogni costo. Si sono trovati i soldi per salvare le banche, si troverà anche la maniera di salvare all'Italia. A proposito di soldi invece, parliamo di tasse. Cosa hanno detto i tre candidati sulle tasse? Ricominciamo da Renzi. Gli unici che hanno fatto qualcosa in questo senso sono stati le persone che hanno scelto, non soltanto sottoscritto o Andrea che faceva parte del Consiglio dei Ministri, ma tutti quelli che hanno scelto di fare innanzitutto gli 80 euro. I numeri sono argomenti testardi, diceva quello. Allora parliamoci chiaro. 10 miliardi di euro dati a 10 milioni di italiani da 3 anni a questa parte sono la più grande opera di redistribuzione mai fatta in Italia negli ultimi 30 anni. Dopodiché non basta, perché tu hai ancora un gap troppo alto, si può intervenire a condizioni, uno, di fare un grande accordo in Europa diverso sulla fiscalità, ma anche sulle regole del deficit pubblico. Ci sono grandi capitali che sfuggono alla statualità, ci sono capitali che mettono la sede da una parte e lo stabilimento dall'altro e pagano le tasse dove vogliono, e questi vanno presi, per questo ci vuole l'unione fiscale a livello europeo. E poi noi dobbiamo lavorare per una razionalizzazione della spesa pubblica. Io credo che si possa fare meglio, la spesa pubblica ancora può essere rivista, non diminuita, ma può essere resa più produttiva. Terza questione, l'1% degli italiani detiene il 25% della ricchezza del paese. Se anche gli chiediamo di fare qualche sacrificio, non credo che strapperanno troppe bottiglie di champagne in meno. Noi vorremmo innanzitutto varare una web tax, vorremmo che chi vende sul web sia equiparato dal punto di vista del prelievo fiscale rispetto ai piccoli commercianti delle nostre città che tengono vivi i nostri quartieri. E con queste entrate possiamo finanziare a regime uno sgravio fiscale permanente che consenta più soldi in busta paga e meno costo del lavoro per gli imprenditori. Adesso Raffaella, sentiamo altri due passaggi, ne sarebbero tantissimi, ma questo sulle alleanze, perché mi sembra che è un tema, diciamo, di dibattito molto forte, per usare un eufemismo, di scontro tra i tre candidati. Sentiamo quindi Renzi e poi Orlando, perché non c'era proprio una dichiarazione effettiva lì nel confronto TV di Emiliano, anche se più volte ha aperto ai 5 Stelle e comunque ha detto che appunto lui chiude alle possibili alleanze con Berlusconi. Sentiamo Renzi. Quello che ti voglio chiedere è questo. Escludi la possibilità di alleanze con Forza Italia dopo le elezioni nella malaugurata ipotesi in cui non si cambiassero la legge elettorale? Al governo votato con la fiducia da Berlusconi io non ci sono mai andato, tu sì. Hai fatto il ministro dell'ambiente in un governo in cui la fiducia te l'ha votata Berlusconi. Io non sono in grado di escludere che ci sia bisogno delle larghe intese. Credo che non si possa escludere le larghe intese. Se ci sarà il proporzionale, lavorerò perché non ci sia il proporzionale. Se si dovesse porre questo tema, anzi si porrà questo tema, io chiederò la convocazione di un referendum, è previsto dal nostro statuto, per decidere se andare con Pisapia o andare con Berlusconi. Insomma, Raffaella, diciamo che non è irrilevante, no? Dopo le primarie, chi vincerà, se diventerà effettivamente il candidato premier, perché Renzi ha detto che chi vincerà sarà anche il candidato premier, e poi con chi, se non avranno la maggioranza in caso di elezioni, con chi si alleeranno. Sì, diciamo che anche in questo caso sono dibattiti che fanno, e poi bisognerà andare a vedere con quale legge elettorale si voterà, e quindi sono discorsi ancora un po' teorici. E l'ex premier Matteo Renzi ha fatto capire di sicuro che, ad esempio, guarda più, ma in un altro tipo, diciamo all'interno del centro-sinistra, guarda più con favore al movimento di Giuliano Pisapia piuttosto che, diciamo, ai fuoriusciti del Partito Democratico, quindi D'Alema and Company. A proposito di questo, proprio oggi Giuliano Pisapia, il suo campo progressista, ha specificato che lui non sta né con Renzi né con D'Alema, ha detto, ma io lavoro ad un centro-sinistra nuovo che è unito. Quello delle alleanze è di sicuro un tema in questo momento di scontro, perché soprattutto diciamo, gli sfidanti, Orlando innanzitutto e Emiliano, attaccano Renzi per appunto gli accordi e le alleanze con Berlusconi, e come abbiamo già sentito il guardasigilli ha più volte detto che ha posto, diciamo, questa accusa, ha detto: nel caso in cui vincesse Renzi si torneranno a fare alleanze con Berlusconi, nel caso in cui, quindi lui proporrebbe eventualmente un referendum, nel caso in cui vincessi io invece lavoro ad un centro-sinistra unito. Questa è l'accusa che viene rivolta a Renzi, una delle principali accuse di queste ore, ma il dibattito di queste ore è molto anche su entro quale soglia si potranno considerare un successo o un flop queste primarie. Di sicuro il confronto con i numeri delle ultime primarie del 2013, quelle che segnarono il trionfo di Matteo Renzi, è forse un confronto difficilmente raggiungibile, perché all'epoca votarono quasi 3 milioni di italiani, 2 milioni e 800 mila persone in tutta Italia. Ora i sondaggi del Nazareno stimano che più o meno alle urne, in questi quasi 8 mila gazebo sparsi per il paese, possono andare 1 milione e 700 mila persone, quindi 1 milione in meno di votanti, che danno anche il segno dell'effetto della disaffezione, un po' anche che queste primarie così particolarmente divisive, laceranti, oltre che per la scissione che c'è stata nel Partito Democratico, hanno avuto. Renzi lo dice che al di sopra di 1 milione va bene, per Orlando invece è un flop, lo considera un flop, dice: andranno bene queste primarie soltanto se si superasse questa soglia. Ed è per questo che anche questa sera lo stesso Premier Gentiloni ha ribadito e rinnovato il suo appello innanzitutto alle urne, perché le primarie, ha detto, sono una conquista e preziosa, quindi, per la democrazia. Ci ricordi, Raffaella, chi può votare, da che ora a che ora? Dalle 8 alle 20 si può votare anche al di fuori, questa secondo me mi sembra un'informazione importante, della propria città di residenza elettorale, però bisogna preiscriversi per farlo, necessaria tessera elettorale, documento d'identità. Chiunque gazebo, può andare, sì, a votare. Esatto, gazebo sparsi, ecco, non soltanto, cioè gli iscritti al Partito Democratico, anche chi non lo fosse, ma in tal caso deve versare una così un obolo di 2 euro e dire che comunque è un militante in qualche modo, che, insomma, militante è una parola un po' grossa, diciamo così, simpatizzante del PD che vota, e non si vota soltanto nei circoli del PD, ma sul sito ci sono sezioni un po' dappertutto, anche in gelateria, per dire, ci sono, quindi se volete negozi, votare potete andare, ci sono, magari mangiate sono anche un po' un gelato, sono sparsi un po' in tutto il paese. Senti, in realtà diverse. Raffaella, in questa gara ci metterei anche le capacità, diciamo, canore dei contendenti. Tutto vale. Sì, sì, tutti a Radio Rock hanno cantato qualcosa. Cominciamo da Orlando, che ha cantato "Prendi questa mano, zingara", se non sbaglio. Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò. Parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Diciamo che Orlando sa fare meglio probabilmente altre cose. Ampi margini di miglioramento, diciamo. Renzi invece, ricominciamo anche metaforicamente, una canzone di Pappalardo. Lasciami gridare e lasciami sfogare, io senza amore non so stare. Troppo alta. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare quegli occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo. E per chiudere, Emiliano, vediamo se se la cava meglio con "Buonanotte fiorellino". Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo, ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Vabbè, ognuno poi il giudizio, qui dobbiamo chiudere, Raffaella Calandra, abbiamo chiuso in bellezza, ognuno poi scelga forse il migliore. Emiliano ha scelto anche la canzone forse anche più adatta al suo tono, mi sembra. Appuntamento quindi, Raffaella Calandra, per allo domenica, di domenica dalle 20 alla chiusura dei seggi, con uno speciale con Narita D'Ambrosio, con i colleghi di Roma, quindi saremo in tante. Buone primarie, ciao Raffaella. Grazie, Calandra. Ciao. Pausa. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se siete ascoltando Radio 24, Effetto Notte, siete al posto giusto, al momento giusto, con la giusta conduttrice, anche con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora, dopo aver parlato di politica, dopo aver riassunto anche le notizie principali, adesso ci spostiamo sulle notizie all'estero. Vi ricordo velocemente che i fatti principali riguardano la polemica sui migranti, quindi il procuratore di Catania comparirà nei prossimi giorni davanti al CSM con Di Maio che attacca e dice è una vergogna. E poi il Papa in Egitto che ha incontrato il presidente al-Sisi e l'imam di Al-Azhar, sottolineando la violenza e la negazione della religiosità, le minacce nucleari della Corea del Nord, di cui parleremo tra pochissimo, le primarie del PD, di cui abbiamo parlato ampiamente, rush finale ormai visto che si vota domenica, e scontro in particolare sulle possibili alleanze. Per il calcio c'è in campo l'anticipo di Serie A Atalanta-Juventus. Quindi dicevamo, le minacce nucleari della Corea del Nord, c'è cioè preoccupazione internazionale, e conoscendo anche a spanne, diciamo, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, c'è poco da scherzare, no? Sapete che basta che un familiare o un collaboratore alzi un sopracciglio in più e lo fa ammazzare a colpi di cannone o con il veleno, oppure tagliandogli la testa, insomma, diciamo, in parte conosciamo certe sue follie. E infatti proprio in questi giorni la Cina ha chiesto a Stati Uniti e Corea del Sud di intervenire in qualche modo per cercare di riportare a più miti consigli la Corea del Nord e le sue minacce. Il segretario americano, cioè quindi il ministro degli esteri Tillerson, oggi ha detto che è solo questione di tempo prima che la Corea del Nord possa effettuare un attacco nucleare e che gli Stati Uniti non staranno a guardare. La Cina preferirebbe degli strumenti diplomatici. Mosca intanto fa sapere che non sarà tollerato un utilizzo della forza. Intanto l'ONU si dice seriamente preoccupato, insomma, per questa escalation di tensione provocata dalla Corea del Nord. Ne parliamo con il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Caro Marco. Salve, buona serata. Ciao Marco. Quindi, diciamo, gli Stati Uniti mostrano a loro volta i muscoli. Fino a che punto sono soltanto muscoli e quali potrebbero essere, dalle ultime cose che sai, fresche dagli Stati Uniti, le intenzioni reali di Trump? Sicuramente no, la voce più grossa per cercare di spaventare almeno così, diciamo, simbolicamente la Corea del Nord. Sì, certamente in questo momento la Corea del Nord è, diciamo, in cima all'agenda di politica estera di Donald Trump, e la sua partita appare in questo momento così delineata: alzare al massimo la pressione, messaggi duri, senza però chiudere la porta a spiragli di diplomatici, e quindi l'azione al principale resta sul fronte di fatto, poi in realtà sul fronte diplomatico, cioè gli inviti alla Cina ad alzare così il Marco, ti sentiamo molto male. Va bene che sei lontano, ma può darsi che sei vicino magari a una fonte, diciamo, molestante, destabilizzante. È possibile. Ora, non ti muovere. Sì. Mi sentite? Ecco. Sì, adesso sì. No, diciamo che appunto la strategia prioritaria di fatto in questo momento resta quella, diciamo, delle pressioni diplomatiche, per cui la richiesta alla Cina di fare di più e la richiesta ad alleati, diciamo, e ai paesi, diciamo, dell'ONU di tirarsi indietro da rapporti diplomatici nei confronti della Corea del Nord fino a che questa non abbia deciso di scendere a più miti consigli sul fronte nucleare, no? Il messaggio questo del segretario di Stato Rex Tillerson. Ecco, quindi questa rimane la strategia preferita, ma allo stesso tempo Trump mantiene così il tono duro che lo ha caratterizzato, un po' il tono minaccioso che lo ha caratterizzato, senza però al momento appunto ricorrere a misure estreme. E speriamo che i mezzi diplomatici possano servire. Senti Marco, una cosa importante è che anche domani si festeggiano, diciamo, i primi 100 giorni dell'amministrazione Trump, no? Lui ieri ha detto: se mi dovessi dare un voto mi darei 10, però oggi ha anche detto: pensavo fosse più facile fare il presidente. Sì, le due battute un po' riassumono questi 100 giorni. Da un lato così la sua così determinazione, e anche qualcuno, diciamo, i critici potrebbero dire arroganza, così sui risultati ottenuti, dall'altra l'ammissione che le cose non sono andate proprio per il verso che aveva immaginato e sono sicuramente state più complicate di quanto almeno avesse previsto lui. Ecco, sono i 100 giorni, come ricordavi tu, del mandato di Trump, e dall'altra però appunto i critici, l'opposizione democratica eccetera celebra invece il suo opposto, cioè i 100 giorni della resistenza Trump. Quindi in questa spaccatura si riflette oggi, domani, si riflette proprio la polarizzazione del paese e le sfide aperte. In questi 100 giorni Trump ha sicuramente fatto ancora molte promesse, ma i risultati sono ancora quasi tutti da venire. Grazie Marco Valsani dagli Stati Uniti, salutaci Trump domani per la festa dei 100 giorni. Ciao. Senz'altro. Marco, ciao, via ciao. Verità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie, seguite sempre Effetto Notte, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, in modo che un giorno non potrete dire non lo sapevo, a proposito di una notizia importante, perché per forza qui si seguite tutti i giorni, sarete aggiornati costantemente. Adesso parliamo invece del viaggio del Papa in Egitto. Vedo ancora i vostri messaggi sul rischio di guerra con la Nord Corea. Luna dice: cosa state facendo? Che informazione? Dice: parlate come delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein. È una situazione decisamente diversa. È l'una questa, comunque è chiaro che prima di tutto gli strumenti diplomatici fino alla fine, perché non si sa dove si può arrivare, anche perché in questo caso pare che Pyongyang comunque le armi nucleari ce le abbia davvero, e comunque ha, diciamo, un presidente, un dittatore veramente con una testa abbastanza folle. Vi dicevo prima di come ha fatto uccidere familiari e collaboratori, anche se semplicemente si addormentavano durante un suo comizio. Adesso vi ricordo quali sono i fatti principali e poi appunto andiamo ci colleghiamo con il Cairo, con la due giorni del Papa. Questa è una delle notizie principali. Poi prosegue questa polemica sul rapporto tra organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani, con le dichiarazioni del procuratore di Catania che comparirà nei prossimi giorni davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Le primarie del PD, si vota domenica, quindi rush finale, scontro sulle possibili alleanze, e poi per il calcio in campo sempre Atalanta-Juventus. Insieme affermiamo l'incompatibilità tra violenza e fede, tra credere e odiare. Insieme dichiariamo la sacralità di ogni vita umana contro qualsiasi forma di violenza fisica, sociale, educativa o psicologica. La violenza, infatti, è la negazione di ogni autentica religiosità. Al salam alaikum. Queste le parole del Papa con questo saluto musulmano alla conferenza sulla pace, conferenza internazionale sulla pace al Cairo. Il Papa è arrivato oggi in Egitto, starà lì per due giorni per il suo viaggio, come lui stesso l'ha definito, di unità e fratellanza. Ne parliamo con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, in diretta dal Cairo. Ciao Carlo. Ciao Roberta, saluti a tutti. Ci dà il senso dell'importanza di questa visita, di questo 18° viaggio internazionale del Papa, Carlo? Sì, questo è il primo viaggio del 2017, è breve, molto particolare, perché facciamo così, quello che almeno ad ora sarà quello di maggior impatto geopolitico, perché la religione e i rapporti interreligiosi ed ecumenici, cioè tra cristiani, per il Papa sono lo strumento di geopolitica mondiale, e sta, come dire, la sua leadership in questo senso è costantemente, diciamo così, riaffermata. E anche qui al Cairo l'imam di Al-Azhar, questa moschea università che è il luogo considerato di maggiore importanza e prestigio dell'Islam sunnita, che è quindi quello maggioritario, il Papa dice: lei è il leader mondiale per la pace. Quindi, diciamo così, questo è un po' il suo messaggio, che lui, diciamo così, declina anche quando incontra i capi di Stato e di Governo a Roma o nel mondo. E qui al Cairo è stata, diciamo così, vista in maniera molto plastica l'estratto che hai mandato di quella frase, che è quella centrale della giornata, è, diciamo, chiara: le religioni e l'odio sono diverse. Carlo, fra l'altro, ha incontrato anche il, o incontrerà forse domani i copti, che sono i cristiani egiziani praticamente, no? Perché sono stati anche duramente colpiti dall'ISIS. Allora, oggi ha incontrato i copti ortodossi, domani incontra i copti cattolici, che sono molto pochi, mentre i copti ortodossi sono tanti, sono 10 milioni, e sono quelli, stasera, poco fa, un'ora fa, quelli che sono, hanno subito le stragi della Domenica delle Palme e anche del dicembre scorso, dove sono morte nel dicembre scorso 29 persone, questo qui a Domenica delle Palme 25, quindi sì, sono quelli più colpiti da questo terrorismo di marca ISIS o di altra marca, perché anche in passato venivano colpiti e spesso queste stragi rimanevano impunite, quindi diciamo qua nel versi cristiani c'è oggettivamente una grande un'intolleranza, diciamo, strisciante, non solo a livello di popolazione ma anche governativo. Carlo, fra l'altro, ha incontrato anche il presidente egiziano al-Sisi, no? Il Papa. Pensi che ci sarà spazio almeno in privato per parlare del caso Regeni, come avevano chiesto i genitori di Giulio, del ricercatore torturato? Sì, giustamente rilevi questo fatto. Lui l'ha incontrato oggi pubblicamente e anche privatamente. Privatamente abbiamo più volte chiesto alle fonti ufficiali e ufficiose se avevano affrontato questo argomento. Non ci è stato detto nulla, quindi è possibile che sia stato fatto, come non lo è. Il Vaticano qualche giorno fa, il portavoce ha detto che è una questione bilaterale fra due paesi, Italia e Egitto, e quando, diciamo, la Santa Sede si muove sempre in maniera discreta, diplomatica. Ora, questo non lo sappiamo, domani c'è la conferenza stampa in aereo, forse gli verrà chiesto, o comunque gli verrà chiesto, vediamo se risponderà e che cosa. È possibile che questo sia avvenuto, però non lo sappiamo. Grazie Carlo Marroni, intanto dal Cairo. Ciao Carlo, buon lavoro. Grazie, buonasera. Grazie a voi, ciao. Adesso invece parliamo della Juventus che è in vantaggio sull'Atalanta, Giovanni Capuano, vero? No, è in vantaggio l'Atalanta sulla Juventus. Ah, siamo al quarto minuto del secondo allora tempo. Allora smentisce le vittorie infinite, il 100%, almeno per adesso, sì, non è finita la partita. Almeno per adesso, ma mancano 40 e passa minuti alla fine della partita, quindi è ancora lunghissima, però è una Juventus un po' in difficoltà. L'avevamo raccontato anche nel collegamento precedente, c'era stato un inizio equilibrato, ma con parecchi errori di precisione da parte della squadra di Allegri. Il gol è arrivato proprio all'ultima azione del primo tempo. C'è stata un'azione insistita dell'Atalanta nell'area di rigore della Juventus, prima un tentativo di Kurtic, murato in scivolata da Chiellini, e la palla è finita al Papu Gomez, che ha fatto un assist perfetto sul secondo palo dove era appostato Conti, laterale di destra dell'Atalanta, che ha battuto Buffon, ha fatto letteralmente imbestialire Allegri, squadre negli spogliatoi con l'Atalanta avanti 1-0, e la Juventus di fatto si era resa pericolosa solo una volta con Cuadrado al 37esimo del primo tempo. Juventus che sta affrontando con una certa difficoltà una partita che è complicata, ma lo si sapeva. L'Atalanta non è quinta per caso in questo campionato e soprattutto in casa è stata una squadra capace di battere Inter, Roma, Napoli e in questo momento di mettere sotto la Juventus, e quindi questa era una trasferta difficile e tutte le difficoltà si stanno confermando anche in questo avvio di ripresa, dove la difesa della Juve ha avuto un paio di svarioni, ha regalato un paio di calci d'angolo agli attaccanti dell'Atalanta, da quelle situazioni poi non è uscito nulla, ma insomma l'Atalanta sta vincendo meritatamente, anche se è arrivato il pareggio firmato da Bonucci, dunque Juventus che ci ha smentito immediatamente, quinto minuto della ripresa e la Juventus ha trovato il pareggio con un colpo di testa di Bonucci sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Pjanic, che ha messo dentro una palla molto morbida. C'è stata una mischia, sono arrivati alcuni difensori dell'Atalanta e Bonucci che ha toccato non di testa ma sostanzialmente è andato in contrasto con Spinazzola, dunque dovrebbe trattarsi di un'autorete. Quindi autorete siamo 1-1 tra Atalanta e Juventus quando siamo al quinto minuto, sesto appena iniziato della ripresa. Grazie Giovanni Capuano. Allora quindi non è finita qui, partita aperta, mentre vogliamo sapere se il cielo sarà aperto, ci sarà il sole o no, da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. Edoardo, buonasera. Buonasera a voi. Che ponte ci aspetta? Dunque, abbiamo notizie in parte buone, in parte così così, perché il tempo sarà in miglioramento nelle prossime ore dopo la perturbazione che ci ha raggiunto nella giornata di ieri, quindi avremo un sabato con ultime piogge al sud e sporadicamente sul medio versante adriatico, ma in via di esaurimento, mentre già al nord e sulle centrali tirreniche prevarrà il bel tempo. Domenica sole prevalente da nord a sud, quindi una bella giornata, anche se un po' ventosa sulle adriatiche al sud, ma con temperature comunque un po' in ripresa, ma attenzione perché domenica sera peggiora al nord-ovest per una nuova perturbazione che purtroppo nella giornata di lunedì 1 maggio passerà velocemente sul nord Italia, portando qualche pioggia o acquazzone più probabile sulle Alpi, ma occasionalmente anche sulla pianura. Mentre al centro-sud rimarrà bel tempo, salvo qualche breve rovescio su Toscana, Umbria e Marche entro fine giornata. Quindi diciamo un fine settimana così e così, abbastanza buono, poi il 1 maggio brutto soprattutto per il nord e nord-ovest, dicevi Edoardo. Esatto, esatto, diciamo che 2/3 del ponte o comunque del weekend lungo sarà comunque soleggiato, la domenica la giornata diciamo più democratica per tutti con sole ovunque, purtroppo appunto lunedì peggiora al nord, non sarà un maltempo intenso come i giorni scorsi, però comunque non mancheranno nuvole locali, piogge, anche un po' di neve sulle Alpi fin verso i 1100-1400 metri, mentre diciamo dal Lazio in giù continuerà a prevalere il sole fino al pomeriggio anche tra le Marche, l'Umbria e l'estremo nord-est. E vabbè, bisogna accontentarsi. Grazie Edoardo Ferrari, Trebimeteo, buon tempo a te comunque sia. Grazie, buon weekend a tutti gli ascoltatori. Ciao Edoardo, noi ci risentiamo brevemente come sempre alle 22.